Then I went down into the basement where my friend, the maniac, busies himself with his electronic graffiti. Finally, his language touches me because he talks to that part of us which insists on drawing profiles on prison walls. In that moment, poetry will be made by everyone, and there will be emus in the zone. Inizia ora Music for You. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Music for Youth, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Radio Sandonà 102-200, Radio Sherwood 97-8, nuova puntata fine luglio, Music for Youth. Buonasera, Alvise Favotto. Con le pinne, fucile ed occhiali, Daniele Terzariol, ben trovato. Ma io... che è vecchia quella canzone. Sì, quando il mare è una tavola blu sotto un cielo di mille colori, ci tuffiamo con la testa lì in giù, fai splash. Splash. Comunque, bene. È tempo di passare immediatamente la parola dopo sì, questo inizio. Sì, cadendo sul patetico. Pessimo. Agli ospiti di questa sera. Chi sono gli ospiti di questa sera? Jump Events. Buonasera Fioi. Buonasera a tutte. Buonasera a tutti voi. Oh, bene, bene. Voci chiare e distinte. Quanto sono radiofonici questi ragazzi. Proprio radiofonici. Siamo carini. Sono anni di studio radiofonico che ci abbiamo alle spalle. È un peccato che non li vedano perché sono anche belli. Proprio dei bei ragazzi. Proprio belli. Sì, sì, quelli classici che fanno, che innalzano valore estetico. Sì, che sì, se sì. Fosse per me e te, guarda. No, ma infatti c'è. Cioè... Presente quando la gente apre i tombini e guarda dentro. Esatto. E noi li... salutiamo. E li chiude, chiama qualcuno e dice: vi che prego. Immagini carine comunque, ragazzi. Portate del cemento fresco e mandano giù una colata. Ecco, noi siamo quelli. Invece no, Jump Events, beh, come tutti Jump sappiamo, famosi perché? Perché concorrono ormai da anni per Mister Maglietta Bagnata e vincono, esatto, a turno. No. Vinti vari tornei di Mister Maglietta Bagnata. Sono un grande esponente del resto. Se noi siamo quelli dentro i tombini, loro sono quelli che chiamano, quelli del cemento, gli dicono vi prego. Esatto, sì sì, loro perché ci tombano. Ne hanno tutte le carte, si sappia. Vogliamo parlare di qualcosa, di questo Jump Events, perché siamo più che per me. C'è un acronimo, tra l'altro. È un acronimo nato un po' di anni fa e poi utilizzato come marchio e sfruttato per sempre come tale. È iniziato un bel po' di anni fa con un ragazzo, proprio scherzando, avevamo bisogno di creare qualcosa di nuovo, sentivamo la necessità, vedevamo che ragazzi emergenti come DJ, come artisti che si sarebbero rivelati tali in futuro ce n'erano, quindi abbiamo cercato di mettere insieme un po' di idee, un po' di gusto, un po' di voglia di far festa soprattutto, chiaramente, e di stare insieme in gruppo, esatto, e abbiamo creato questo semplice organizzazione che era basata su due ragazzi che hanno provato a fare per la prima volta una festa al vecchio Monkeys, istituzione di San Donato di Piave, vecchio nella seconda gestione, però, cioè nella seconda location, diciamo, nella zona industriale. Abbiamo fatto una prima festa chiamata Big Mortaz Winter Party. Che nome gloriosa è stata una... Che bel codice fiscale. È stato quello che ci ha dato il via. È andato bene quello e quindi ci siamo sentiti grandi e capaci di poter fare molte altre cose. Tra poi... cui Mister Bagnato, bagnatissimo. Chiaramente, esatto. Chiaramente. Mister Bagnatissimo. Esatto. Comunque. È stato il mio esordio. Della pornografia. Favotto, mentre loro organizzavano feste, io e sì. Te cercavamo ancora di capire come si apriva la scatola per giocare con i regoli. Esatto, sì. E eravamo abbastanza indecisi, sì, su quello fucsia era da 4 o da 3. E poi. Ci era siamo... da 5. Era esattamente. E poi non ci lo siamo... ha ancora capito, quindi. Cioè, immagina che cervelli fini. E ora capite perché voi organizzate feste e noi no. E noi continuiamo con i regoli e con i Playmobil, perché sennò ci hanno tolto i Lego. Sì. I nostri genitori l'altro giorno ci hanno tolto i Lego. Perché li mangiavamo. Perché li mangiavamo. Sapete sapete che sono vietati dai 0 ai 4. Esatto, ma dai 0 ai 4 neuroni, per cui noi forse potremmo avere noi in due sappiamo che possiamo fare i giochini base. Perfetto. Avete presente tipo quelli massimo 50 pezzi, anche che poi dopo ci perdiamo, è tutto sì, un casino. Sì, perché poi dopo troppo creativi, cioè ste cose, attacca il mattoncino, l'omino che non poi non con si gli occhiali da sole, tutto. Con i baffetti, poi c'era quello con il cappellino. E poi a noi girano le scatole e alla fine gli buttiamo una cementata sopra questi Lego. Infatti, e tutto torna sul cemento fresco. Subito del catrame purificatore e via, i bambini giocano. Chissà se questo Darwin Deeds si pronuncia così? Sì, sì, sì. Io penso di sì. Ex chitarrista, suona in varie band e poi parte con una carriera solista. Ci fa lo spot della Volkswagen. Chiama lo scemo. Scusa. Infatti non è qui a registrare con noi. Comunque ha pubblicato un bel singolo che si chiama Constellation. Adesso è uscito con il nuovo Radar Detector, un po' di indie folk, chitarrine, elettronica, cose varie, sì, che piacciono a noi. Poi c'è anche da dire che lui nel tempo libero comunque fa Mister Baglietta Bagnata. L'ultima volta è arrivato in finale con Albo e Kate. Ma è arrivato secondo, poi, chiaramente. E non ce n'era proprio per nessuno. Sì, sì, sì, no, ormai cioè, le giurie internazionali tifano per noi. Esatto. Noi prima è di uno storico poi alle spalle che rende evidente molte caratteristiche. C'è poco da fare. Esatto. Parliamone dopo comunque. Parliamone dopo. Parliamone in questa nella continuazione di questo programma settimanale Music for Youth. Vi ricordo che poi saremo in collegamento telefonico da Milano con i Delude by Lesbians, che suoneranno lo Zigit a Rock and Doc qui a 90 di Piave. Avremo modo di capire anche perché il nome di questo gruppo. Ce lo spiegherà. Perché essere delusi dalle lesbiche? Io me lo domando. Quando noi possiamo dire. Anche noi, credo, ce lo domandiamo tutti insieme. E ci diciamo tutti un po' più soddisfatti di quelli da Milano, per cui vabbè, dopo comunque ci sarà modo di chiederglielo, come esatto, si diceva. Cioè, in questi casi è sempre meglio l'indagine sul campo. Allora, andiamo a sentirci Radar Detector, questo è Darwin Deez sui 102.2 di Radio Sandonà e i 97.8 di Radio Sherwood. You and I buy star maps and drive my car around Los Angeles. You and I buy star maps and ding dong ditch a televangelist. It's only been a week, but I know that you are mine to keep. A radar detector. I drive 1,000 miles an hour. I won't go on and on. But you are always looking out for me. You and I go shopping and find exactly what we're looking for. You and I go. Detector. I drive 1,000 miles an hour. I won't go on and on. You are always looking out for me because you are a radar detector. You are a radar detector. You are a radar detector. You are a radar detector. You are a radar detector. You are a radar detector. Detector. I drive 1,000 miles an hour and I won't go on and on and on and you are always looking out for me. You are a radar detector. Radio Sherwood 97-800, Radio Sandonà 102-200, questo era Darwin Dees, Radar Detector su Music for Youth, la prima canzone di questa settimana. Ospiti con noi Jump Events che ci parleranno del loro progetto. Alvise e Favotto, cedo la parola a te. Sì, noi siamo partiti con questi ragazzi che un giorno si incontrano e organizzano una festa al Monkeys. Esatto. Dopodiché cosa succede? Dopodiché abbiamo preso coraggio, dopo quell'evento là, abbiamo unito tra l'altro le conoscenze con Luca Cassiano, che già al momento ha cominciato ad inserirci nel suo movimento, che era già una realtà, dove mio fratello tra l'altro era uno dei DJ. E niente, da quel periodo là sono susseguite una serie di eventi appoggiati con Luca Cassiano, che sono stati i primi By Night, da che alla fine del giugno del 2007 c'è stata la scissione con il mio precedente socio, che era tra l'altro l'origine dell'acronimo Marco Pescara, che stava dopo Jacopo Albonetti, e quindi Jump. E quindi usciva Jump. Kat era già ormai dopo Kat due era eventi, su piazza dopo Kat era, io ero ancora su piazza, ragazzi, dopo essersi dimostrato molto valido nell'indossare magliette bagnate, esatto, sopra la pitona, esatto, di San Donato di Piave. Qualcuno ha notato il suo potenziale, la sua capacità di stare in mezzo alla gente, il suo movimento di bacino, che era la persona giusta per continuare una collaborazione, per continuare quello che è un desiderio, un'aspirazione, un modo di divertirsi sicuramente. Sì, infatti si narra che loro si siano scelti quando Albo ha visto Katte che giocava con l'hula hoop, e siccome tutti, esatto, sanno che Katte nudo, tra è l'altro bravissimo, esatto, non che svelare va... troppo i miei segreti, però Neva Ghiotto dei giochi con l'hula hoop, ha dato, se l'è scelto e l'hanno piazzato come miglior Moji. L'abbiamo messo davanti alla scelta se si sentiva in grado di diventare uno dei due soci, e si è sentito pronto e ha preso la palla al balzo ed è diventato quello che è, insomma, un'istituzione dell'hula hoop, tra l'altro. Esatto, un'istituzione dell'hula hoop, esatto, se la giocava con Brigitte Bardot in tempi non sospetti. Esatto, e con le gemelle Kessler. Esatto. E da quel momento là quindi è cominciato un nuovo modo di lavorare, nuove idee, nuovi progetti, una nuova struttura dell'organizzazione e molte altre cose. Ma sempre comunque tanta voglia di stare insieme alla gente, tanta voglia di fare festa. Questo quindi lui è quello che è fa. Il succo, lui è il discorso. Team manager. Lui è quello che ci tiene insieme tutti. È un collante. Senza andiamo in giro e ci spargiamo. Lui viene, ci abbraccia e ci fa suoi. Lui è il Vinaville. Esatto. Chiaro, esatto. Beh, da oggi ti chiamerò Vinaville, ricordatelo. È un piacere. Parliamo un po' anche dei vostri progetti. Beh, come possiamo definirli? Attuali, ossia, noi sappiamo che al muretto voi fate un po' parte dell'arredamento, siete come quei soprammobili. Siamo assai soprammobili. No, al diciamo musetto. Che sì, abbiamo un po' questa doppia sfaccettatura noi, che d'inverno abbiamo le nostre proposte, abbiamo le nostre feste, cerchiamo di organizzare i nostri eventi con la nostra gente, diciamo, e d'estate ci occupiamo di seguire le forze più grandi, le pubbliche relazioni all'interno dei locali che vanno di più nel litorale. Sono double face. Esatto. Quando ha detto versatili. Quando ha detto le forze più grandi, a me veniva in mente Star Trek. Non so a te. E lui che. Vuoi un flyer per sabato sera? Vuoi essere messo nella lista? Incontrerai tuo padre. Ragazzi, per piacere. Va bene, andiamo. Perché vi abbiamo fatto questa domanda? Perché il prossimo DJ in programmazione a Music for Youth di questa settimana è Cassius. I prossimi. Anzi, i Cassius. Sì, perché essendo francesi, questi francesi, un po' come gli Air e come tanta altra gente, appena si trovano in due fanno un duo electro. Non capisco cosa deve essere, però. Esatto, come quando dice il mago Telma quando legge gli oroscopi dice noi, esatto, è presente, ecco la stessa cosa, noi si fa un duo electro e ci chiamiamo di cognome, occhio che ve lo dico, me li sono segnati, Cerboneschi e Blanc Francard. Scese il silenzio. C'eravate la sera di Cassius? Esatto, oltre a vergogna. Sì che c'eravamo, certo. Direi dovevano suonare anche al Cocorico di Riccione a un grande evento che era il One Festival. È stato uno degli eventi più grossi che ci sia stato nell'ultimo periodo e purtroppo non è riuscito a venire e ha avvisato nelle ultime ore che non sarebbe potuto essere presente. Purtroppo però il muretto comunque ha dato sempre grande dimostrazione di se stesso e delle sue abilità di DJ, di intrattenitore. È un grande intrattenitore sicuramente. Sono venuti a mancare, come tutti sperano, i nostri confronti. Ma tranquilli, andiamo in ferie. Sì, era penultima puntata. Cioè. Sì, non dovete più sopportarci. Andate sotto felici. L'ombrellone, accendete la radio, avete la sicurezza che non sentirete le nostre voci marce. Di sentire onde statiche. Noi saremo al corso di Hula Hop organizzato da Kate per tutto il mese di agosto. Fa dei master. Per noi e solo su invito, però, ragazzi, su invito, attenzione, perché è una cosa d'elite. È da privilegiati. Comunque i corsi sono aperti. Mandateci una mail. I prezzi non li possiamo dire così, perché insomma capite che insomma, bisogna anche ragionarci sopra. C'è un margine di ragionamento sui prezzi, però sappiate che proibitivi per le tasche vuote, meglio che voi. Però per le ragazze c'è una scontistica. C'è una scontistica. C'è sempre una scontistica per le ragazze. Basta, non diciamo. È il nostro altro. Nuovo motto. Comunque, questi Cassius avevano inciso il loro primo singolo che si chiamava Foxy. Volpe, ti sei una volpe. Esatto, Foxy anche come la celebre carta igienica, tra esatto. L'altro, triplo velo e voglio dire. E voglio dire, insomma, cioè, vuoi non trarne un titolo da una cosa del genere? Esatto, a quel punto capiscono che come titoli non ci siamo e allora cosa fare? Diamo un titolo che è uguale al nostro nome e aggiungiamoci l'anno in cui l'abbiamo fatto. Complimenti, cioè. Forse anche loro potrebbero scartare il Lego con noi. Quelli. Caspita, c'è una scienza. Anche loro sono in due. Esatto. E forse anche loro potrebbero beccarsi il cemento fresco. Probabilmente questi hanno più neuroni, però. Comunque, questi DJ andiamoci a riascoltare. Che dire, nient'altro. Le boiate di questo turno di parlata sono esaurite. Cassius 99. Presentali tu, Alvise, con molto garbo, mentre io abbasso i volumi e li alzo. Cassius 99, Radio Sherwood 97.8, 102.2, Radio Sonora. Questo era Cassius 99, Radio Sandonà 102-200, Radio Sherwood 97-800. Bentornati in nostra compagnia. Music for you, anche per questa settimana, purtroppo per le vostre orecchie. Quando dice Cassius is in the house, secondo te, in che stanza è? In the house? Non lo so, fammici pensare. Se è in salotto, almeno offrigli un tè, fai una cortesia. Dimmi, torniamo tutto sui nostri binari, al posto di continuare a sparare boiate in loop. Certo, perché i nostri binari di solito invece si sollevano come quelli del tram a Padova, dicendo che è colpa del caldo. Esatto. Spettatori cosa? Ascoltatori di Sherwood, ditecelo, soprattutto dopo che forse qualcuno di voi ha avuto l'opportunità di vederci in diretta con i Motel Connection. Sì. È il momento in cui ce la tiriamo, è arrivato il momento in cui Music for Youth se la tira. Un minimo per quei 30 secondi ce la tiriamo anche noi. E sabato eravamo in diretta da Sherwood, insomma, un momento di gloria anche per noi. Sì, sì, cioè abbiamo fatto un pulmino, il pulmino che promettiamo da tutto un anno, lo abbiamo fatto. Che doveva partire e noi abbiamo raccattato su, egoist, come dicevano sulla pubblicità di un famoso profumo. Però va bene, dai, il camionetto mangiava benzina e esatto, noi avevamo pochi soldi e io e Alvise siamo pesantini. Esatto, sì sì, alla fine voglio dire, poi abbiamo anche rifatto gli ammortizzatori poi dopo essere tornati, per cui, però è stata una bella cosa. Ringraziamo un sacco i ragazzi di Radio Sherwood, il Motel Connection, per essere stati così gentili con noi, averci sopportato per 2 ore e mezza e ce ne vuole, neanche mia madre. Comunque, Kat ha fatto una faccia spaurita, per fortuna il microfono abbassato, si è limitato a una faccia veramente di chi, per esempio, gli era caduto per terra l'hula hoop dopo 10.000 giri. Ha detto, perché è caduto per terra? Cioè, io che sono il re delle celebrità dell'hula hoop. E subito pensa il Guinness. E invece pensi alla Guinness come birra che ci siamo bevuti, io, Favotto, nella camionetta, insieme all'unica persona che abbiamo raccattato, e chi era il cantante di Arms. Disco proposta di questa settimana. Esatto, Arms. Arms inizialmente aveva un nome più esteso, lo sanno tutto. Arms Stolen to Agriculture. Braccia rubate all'agricoltura. Esatto, poi l'hanno tagliato in Arms e basta, perché... Sì, perché Jump Evans si è lamentato e ha detto, ascolte, Fioia, qua non piace. Nei flyer, braccia rubate all'agricoltura è troppo lungo da mettere. A parte che sprechiamo inchiostro fuori maniera, che invece potremmo sprecare per mettere il simbolo di Music for Youth, come sì, giusto che sia, ma penso che questo non si verificherà mai. Messaggi subliminali come il Cinar nei film anni 70 e 70. Mi sto accendendo una sigaretta Marlboro. Fuma Muratti. Comunque andiamo avanti, si diceva, disco proposta di questa settimana, Arms, il pezzo si chiama Shit Little Disco. Noi... un ottimo pezzo, veramente, sì, è vecchio, è un 2006, un 2006, una bravissimo, buona annata come l'aceto. In pratica è un qualcosa che fa pensare alla wave anni 80, a noi piace abbastanza, è passato totalmente inosservato, però sentitevelo, perché si parla molto di editors, di Interpol, eccetera eccetera, questi non hanno niente da invidiare. Raggruppano un po' i Joy Division, i New Order, ma anche i The Church. Perché dico The Church? Perché mi sono rivisto Donnie Darko e The Church con Under the Milky Way, e nella colonna sonora, un altro film che vi consigliamo di guardare. Sì sì sì. Io dopo la terza volta che l'ho visto non l'ho ancora capito, sono andato a leggermi la spiegazione in internet e non l'ho ancora capito. E non ho capito nemmeno quella. Poi ha provato a leggere una scatola di Lego e lì ha capito. Esatto. Possiamo anche andare con Shit Little Disco di Arms. Arms. L'album dal quale è stato estratto si chiama Kids Aflame. Noi andiamo ad ascoltarcelo su RSD 102.2 Radio Sherwood 97.800. Questa è una bonus track, ma sentitevi tutto il disco perché è veramente valido. Sideways at my funny sound. So I twisted to the weekend and I drank a little more than I should. So I said a few things, I got sick like I knew I would. Shit Little Disco degli Arms, Music for Youth, bentornati in nostra compagnia. È il momento della telefonica, Favotto. Oh yeah! Ed è una telefonica che arriva da Milano. Abbiamo in collegamento con noi l'ora o'clock dei The Lude by Lesbians. Buonasera amici ascoltatori a casa, buonasera. Ma che voce fai? Veramente una cosa La voce del buon Mike, amici ascoltatori. È bellissimo, continua così, fai un piacere. Sì, tutto il tempo così non riesco. Se ce la fai con l'ugola, tienila così. Purtroppo ho già esaurito il mio repertorio di Mike. Potevo darvi un fantastico mortacci vostra. Chi ve lo dice con la mano alzata e la voce di Mike, buongiorno. Li mortacci vostra. Ciao. Però ciao Francesco, posso chiamarti un attimo Francesco? Perché io sono... No, dovresti chiamarmi Laura O'Clock. Laura O'Clock, come ti ho presentato. L'argomento di cui dobbiamo parlare. Comunque, ciao Laura, anche se io solitamente sono abituato a chiamarti in altre maniere. Ciao Laura, esatto. E allora, come andiamo? Ciao ragazzi. Come andiamo lì a Milano? È calda? Ma sono in questo momento all'Arco della Pace, un ridente monumento che ricorda l'Arco di Trionfo dei Campi Elisi di Parigi. Che fortunello, veramente. Che si affaccia su Corso Sempione, l'area della movida fighetta. Com'è? Di Milano, mi sto pezzando le ascelle. Si immaginava. Guarda, noi facciamo la stessa cosa, ma col panorama su un argine. Quindi ti spiego. Ragazzi, voi lì in Veneto avete tanti bei fiumi. Sì, infatti, laghi. Noi stiamo aspettando che arrivi un camion lanciato su per il guardrail che cade dentro l'argine, successivamente in piave. Noi tiriamo sulle palette con i voti, presenti i tuffi di nuoto. Esatto. La stessa cosa. Quindi scatteranno... Succede spesso, immagino, visto che siete attrezzati con le palette. Sì. Sì, alla fine Scania Track of the Year 2009 sono le nostre palette che l'hanno decretato. I vostri voti, esatto. Allora ci fidiamo sicuramente. La prossima volta che comprerò un camion, sì, saprò, insomma, quel famoso Track of the Year da dove proviene. Ascolta, se invece io volessi comprarmi il vostro CD, quando uscirà? Perché io so che avete prodotto due EP, cioè ce li ho anche a casa. Perché... Tu non potevi non averli. Noi, il CD esce ufficialmente nei negozi a metà settembre, la data esatta non ce l'hanno ancora fatta sapere, perché ovviamente voi dici il titolo, ma soprattutto la genesi del vostro nome, che in questo studio interessa veramente tantissimo. Allora, ma più il disco si intitola The Revolution of Spaces, perché è una non colta citazione di Darwin, che come ben sapete aveva teorizzato l'evoluzione della specie umana. Noi abbiamo un po' parlato di rivoluzione o di involuzione, visto che siamo in copertina travestiti da uomo primitivo, uomo moderno e uomo del futuro, che però guardano al passato, quindi un po' tutto completamente assurdo. E il gruppo si chiama Deluded by Lesbians perché purtroppo, ragazzi, purtroppo per fortuna, dipende dai gusti, le ragazze lesbiche sono sempre di più. Ah, e noi ci senso. Innamoriamo perché sono molto affascinanti, ma in quel senso lì, no, perché noi, si diceva, siamo sempre stati così attratti dalla cosa perché questi ne sono delusi. Ah, perché esatto. Voi siete stati rifiutati. Esattamente. Caspita. Rifiutati o parzialmente rifiutati, comunque storie che sono andate male, ci hanno fatto tanto soffrire, e quindi abbiamo cercato di, nella musica e nel rock ignorante, un po' di rivalsa, insomma. Di queste storie si parla qualcosa nel CD? No, non c'è una citazione diretta in realtà, perché abbiamo cercato di affrancarci, di dimenticarci questi momenti tristissimi, ma non ci riusciamo, c'è sempre questa tristezza di fondo che accomuna tutte le canzoni. Non è vero, assolutamente. Proviamo a distaccarci da quei momenti che un po' bui della nostra esistenza, pigliandoci per il culo tranquillamente, insomma. Beh, che è sempre una cosa bella da fare. Sport io, nazionale. Esatto, sì, poi a parte l'arrampicata sugli specchi, a questo punto ci dicono che sarete dalle nostre parti a breve. Esattamente, cioè la nostra seconda data nella storia in Veneto. La prima è stata un anno e mezzo fa in un festival di gruppi emergenti, anche se ormai non lo siamo più, essendo ormai arrivato il primo disco, no. Siete emersi ormai. La stiamo tirando. La data è il 23 luglio al Rock and Dock Venice Festival. Devi dirlo di con la Novento dei Piavi. Devi dirlo con la bocca aperta il più possibile. Rock and Dock, esatto. Rock and Dock Festival Novento dei Piavi. A 90 di Piave, il 23 luglio, quella sera sono headliner Le Vibrazioni, che è uno dei nostri gruppi di riferimento, come potrete probabilmente sentire dalla nostra musica. Sì, sì, ma infatti io ho detto, beh, queste sono pari pari alle Vibrazioni, proprio, esatto. Siete uno spauracchio, sì, assolutamente. Saremo gli headliner dello Stage B, vi faremo divertire, insomma, credo che tutti i giovani ragazzi e ragazze dell'alto e del basso Piave debbano passare da 90 ci quella sera. Ci buttiamo in Piave, si buttano tutti in Piave, aspettano che il Piave li porti fino a 90. Esatto, e poi arrivano, scendono comodamente. Esatto. palette. E quando arrivano, a voi verranno date delle palette, potete dare i voti. Esatto, beh, mi piace questo sport veneto. Comunque, sarà il supporter of the year, fan of the year. Io so che dopo questo Rock and Doc in realtà avete una data in trasferta fuori dai confini nostri più importante. Sì, abbiamo molto più importante. Cioè non è vero, ogni data è importante. A volte anche suonare alla Sagra della Birra di Cusano Milanino può essere più importante che suonare allo Zighe Festival di Budapest. Ole, complimenti anche Gentaglia. Bravi. Siamo ancora commossi, non ci crediamo ancora, ma siamo stati la prima delle 170 band che hanno partecipato a questo concorsone nazionale, prima online e poi da una fantastica giuria. Siamo stati scelti, abbiamo vinto questa fantastica opportunità di suonare in Ungheria e tra l'altro ottimo. Il Rock and Doc è collegato anche a questo contest, quindi suoniamo Rock and Doc anche perché abbiamo vinto lo Ziget e siamo contentissimi, stiamo partendo, stiamo organizzando, volevamo fare qualche data in est europeo, ma insomma anche a Lubiana chiude tutto ad agosto purtroppo. Vorrei ben vedere. Esatto. Che stanno aperti per voi, già ho capito che avete vinto. Ma vabbè, ma il rock and roll dovrebbe aprire le porte, non chiuderle, ma purtroppo d'agosto non c'è rock and roll che tenga. Puoi considerare di portarci dei krauti? Beh, i famosi krauti ungheresi. No, più che altro la vera specialità ungherese è la paprika, che noi in Italia chiamiamo paprika. Esattamente. Che condisce l'amatissimo goulash di cui faremo sicuramente incetta. E ad agosto, complimenti. Il goulash ad agosto aiuta soprattutto. Complimenti per gli stomaci. Una settimana fa c'erano 38 gradi a Milano, ho mangiato il cotechino coi fagioli. Beh, quindi sei un bel ragazzo. Tra l'altro, perché dobbiamo mantenere la linea e quindi ci difendiamo. Un cotechino non si rifiuta mai. Vuoi buttarlo via? Parliamo un attimo e poi presentiamo il vostro singolo che si chiama She Do Wanna. Parliamo un attimo di questa canzone, ma soprattutto parliamo un po' del vostro genere, a che cosa vi ispirate e se ti va, se vuoi consigliarci un CD, puoi farlo molto volentieri. Un CD è molto difficile, perché quello che abbiamo sempre cercato di fare è di mischiare più stili, cioè rimanere sempre nell'ambito del rock, più possibilmente ignorante possibile, più possibilmente possibile bruttissimo purtroppo mi è venuto, però passare da canzoni magari più punk, più veloci, con sacco di battiti per minuto, a magari canzoni un po' più lente, quasi una stoner ballad, cercare di cambiare radicalmente stile. Le prime recensioni che sono uscite del disco parlano di un pezzo che si chiama Pompeii, che è super stoner, super tirato, molto acido, e poi il pezzo dopo che si chiama Come On Get In, che è totalmente un rock and roll quasi alla AC/DC, un po' meno paraculo, generi quasi completamente diversi, ma è quello che ci sentiamo di fare. Non ci piace pensare ad un solo genere, ma ci piace cambiare da canzone a canzone. She Do Wanna è forse un po' un misto tra la nostra anima un po' più punk e la nostra anima un po' più stoner. In questo pezzo canto io principalmente, perché tutti e tre nel gruppo ci scambiamo sia le parti vocali, sia chitarra e basso. Purtroppo la batteria non siamo ancora in grado di farla ruotare, ma ci piacerebbe fare anche quello. In questo pezzo io canto e suono il basso. Parla sostanzialmente di la vera storia che succede a tutti gli uomini, di avere una ragazza che ti vuole ma tu non vuoi darglielo. Poi in realtà la situazione si cambia, perché insomma ci sono quei momenti di tristezza che prendono chiunque, la situazione si ribalta, lui decide di chiamare lei ci sta perché fondamentalmente passa di lui, poi la serata in realtà va male perché lui si ubriaca, la porta a casa, ma ovviamente con i fumi dell'alcol non riesce a combinare nulla e alla fine il pezzo finisce con lei in realtà non lo vuole più. Molto bene Francesco, grazie di tutto. Noi adesso andiamo ad ascoltarci questa canzone che tu hai egregiamente presentato. Fantastico. Ricordiamo Delude by Lesbians a Rock and Doc, il giorno vuoi ricordarlo tu? 23 luglio. E successivamente lo Zigit Festival il 9 agosto, per chi sarà e in trasferta. Se volete venire a Milano al Milano Film Festival il 16 settembre, noi siamo lì, torneremo davanti al teatro Strehler, una location prestigiosissima, vi aspettiamo. E poi andate sul nostro MySpace, www.myspace.com/deludedbylesbians, con una S finale, e oppure potete diventare i nostri fans su Facebook. Grazie Francesco, è partito un antifurto a Milano, ho sentito. Sì, ma io qua sono, insomma, Milano città di ladri, stavo provando a rubare una macchina. Stavano provando a rubare l'arco, vero? Esatto, beh, l'arco è fatto di marmo, sai, c'è sempre bisogno di marmo fresco. Esatto. In città, Francesco, ti ringrazio, ci aggiorniamo presto. A voi, ragazzi, in bocca al lupo. Mille. Ciao. She Do Wanna su Radio Sandonà 102.200, Radio Sherwood 97.8, queste sono i Delude by Lesbians. E questa era She Do Wanna dei The Ludwig Lesbian, sono stati ospiti con noi in telefonica. Bentornati in Music for Youth, Radio Sandonà 102.200, Radio Sherry 17.800. Ospiti questa sera con noi Jump Events. Alvise è già pronto per una nuova domanda ai nostri ospiti, come no, si diceva. Più che altro mi ricollego a un discorso che gli abbiamo fatto iniziare e poi gli abbiamo tagliato brutalmente. Perché facciamo schifo. Sì, esatto, perché come conduttori non valiamo nulla. In realtà ci stavano dicendo che in inverno hanno delle loro attività che sono diverse da quelle che hanno in estate. Sì, beh, direi parto io. Prego, prego. Prego, Isinio, prego, vada. Beh, sì, appunto, diciamo che d'inverno diamo al popolo le nostre idee, la nostra voglia di fare. D'estate ci allacciamo ai locali del litorale. Io lavoro al Muretto, mentre Jacopo lavora al Cocoricò, dove diciamo che oltre a come stimolo, come tanta voglia di fare che ci trasmettono questi posti, allacciamo rapporti anche con altre realtà più o meno come le nostre locali in giro per Mestre, Padova, Vicenza, che diciamo che comunque anche durante l'inverno sono cose redditizie e che ci permettono di divertirci fondamentalmente. Come è iniziata l'idea di organizzare le feste in inverno e che tipo di messaggio volete dare con questo tipo di feste? Dunque, l'idea, vi ho detto, è nata semplicemente per caso, è stato proprio un modo per fare qualcosa di diverso, per mettere insieme un po' di conoscenze. Successivamente è tutta una cosa che viene da sé, si conosce più gente, si decide per l'estate di stare tranquilli, di non lavorare, di godersi la vacanza, l'estate successiva si decide di continuare a lavorare, quindi ognuno prende le sue strade, come quest'anno vi stavo dicendo prima Nicola. La festa nasce magari per un'occasione, per un locale che fa una proposta, nasce per una nostra esigenza dopo magari due mesi che non riceviamo alcuna proposta, diciamo no, qua ci vuole, dobbiamo farla, e allora si decide di trovare il posto, mettere insieme quelli che sono i nostri mezzi, che sono i nostri DJ, il nostro bacino di promozione, i PR e tutti quelli che lavorano, creare un pacchetto, una festa, un prodotto sicuramente, perché può essere anche visto a livello commerciale un prodotto da consegnare al pubblico e chiedere se vogliono partecipare e venire a divertirsi con noi. Nella vostra scuderia chi annoverate? Nella nostra scuderia abbiamo dei DJ emergenti giovani che abbiamo preso sotto braccio alcuni anni fa e deciso di portare avanti, che sono uno è Guido Giovanni, conosciuto come a livello artistico Guido Giovanni e di nome invece Guido Barosco. Si chiama Guido Giovanni Barosco e ha deciso di tagliare, partizionare il esatto il Barosco e scegliere solamente i due nomi. Boh, che è un altro DJ, fa un altro genere rispetto a lui. È stato anche nostro ospite, ciao Bosca. È stato qui. Vostro ospite, esatto, stato qui. Fanno dei generi di musica un po' diversi loro due. Uno è un po' più tranquillo, tende a prendere la gente, portarsela sotto il palco e cominciare a farla muovere, mentre l'altro li becca quando sono tutti quanti pronti e li porta avanti fino alla fine. Dopodiché abbiamo anche altri due ragazzi che sono Loudspeaker, entrati da poco, famosi anche per aver creato la maglietta la marca di vestiti Mude, quella che avete visto sicuramente tutti in giro. Sono loro? Con le scritte, esatto, Die Musikist meine Droge. Dovevate portarcene due allora, solo perché ci portano tutte le magliette vergognive. La stessa domanda che noi facciamo a loro. La stiamo aspettando noi, okay. Abbiamo pensato di darle in giro e non io sto contattando noi. Ferrino, quello delle tende da campeggio, se me ne fanno una. Io contatterò Santi Di Chieri per questa causa. Le stiamo aspettando, arriveranno. È morto infatti. Faccia l'anima sua del resto, e viva Daniele. Vabbè, andiamo pure avanti. Torniamo sulle cose serie. Sì, per chi non vi conosce, mettiamo che abbiamo un ascoltatore dal Trentino Alto Adige. Certo. Non vi conosce. Ciao, ascoltatore del Trentino Alto Adige. Che cosa ci si aspetta alle vostre feste? Che musica ci si aspetta? Allora, arriva l'orchestra Tony e il Poker o ballo caraibico? Che cosa succede alle vostre feste? Dunque, ci si diverte alle vostre feste? Ci si diverte molto alle nostre feste. Sembra di sì che ci si diverte. Sembra che ci si diverta molto alle nostre feste. Poi ovviamente ci sono le feste più grandi, le feste più piccole, organizzate in maniera diversa. Noi abbiamo lavorato su due fronti fino ad adesso. I nostri DJ, i nostri artisti, voi sapete, la musica da ballare si divide in electro, elettronica, funk, indie e tutto ciò che ne va dietro. Massimi esponenti della zona che abbiamo qui sono i Gain on Top. E un altro genere di musica più costruita in casa, meno suoni rock, meno chitarre, meno bassi, accorde, tutto ciò che non fa parte di quel genere. Si chiama house, tech house e tutto ciò che è tutto questo ramo di genere di musica. Noi abbiamo lavorato su questi due fronti, preferendo l'electro in by night e mentre favorendo la house nei nostri progetti da soli, perché i nostri DJ effettivamente fanno quel genere di musica e hanno tralasciato l'electro qualche anno fa. Se doveste suggerire un artista che in questo momento a voi piace, sta facendo storia e sta facendo legge in tutta Europa e adesso anche nell'estero, un certo Paul Clark Brenner, scusatemi, è un cognome molto difficile che ormai è diventato leggenda dopo aver fatto un film chiamato Berlin Calling, in cui era un po' la sua storia, un po' un mito della sua storia, in cui raccontava di come è diventato famoso, di come si è riuscito a fare un disco che l'ha portato a successo e adesso è diventato un DJ di grande successo e di grande fama, soprattutto stimato e conosciuto dopo questo film. Va ascoltato, la colonna sonora intera del film va ascoltata e va gustata. Capito, gente? Tra l'altro, Brennen in tedesco vuol dire bruciare, questo è Brenner, quindi di cognome fa bruciatore. Pensavo Bennett, il supermercato. Che meraviglia. Il centro commerciale, non importa. Vi prego, Gian Pivens, se ci riuscirete, quando sarete un po' più vecchi, ma anche perché già siete collaudati, quindi basta che siate vecchi, portate i Beastie Boys, un po' di old school, che noi adesso ci fareste un gran piacere. Noi amiamo l'old school in realtà. Ecco, portate quindi anche i Pantera, dopo che... esatto. Noi invece gli Uragani. Andiamo ad ascoltarci i Beastie Boys. Stiamo saltando a pie pari la scaletta, perché questi Jump Events, insomma, ci hanno preso, che abbiamo avuto di che discutere. Saltiamo Kid Cudi, mi dispiace, Favotto, sarà per un'altra volta. Va bene, non ci possiamo fare niente e poi dobbiamo comunque sempre inchinarci di fronte a dei ragazzi che scelgono di entrare in stati anarchici per divertimento. Bravissimo. Vuoi spiegare il perché? Allora, come Jump Events è un acronimo, anche Beastie Boys è un acronimo, ossia la parte Beastie di Beastie Boys è un acronimo. E ora Daniele, siccome Daniele, come tutti sanno, è uno dei coautori di Wikipedia, vi dirà per cosa sta Beastie. Boys Entering, no, è quello che hai detto tu prima. Esattamente, però... ma infatti lo devo ripetere, questo devo fare? No, sarebbe te lo devo dire in inglese? Sì. Ok. Boys Entering Anarchist States Towards Inner Excellence. Quanta meraviglia, perché non mi ricordavo che puntano verso l'eccellenza interna. Ah, ho capito, scusa, mi avevi colto impreparato, anche perché io stavo maneggiando il mixer, però pazienza, dai. C'è chi maneggia con il gelato. Comunque, saltiamo Kid Cudi, saltiamo i Blur, anche se io volevo dire, ma lo dico lo stesso, che il bassista del gruppo è un produttore di formaggi, è inoltre amante dell'astronomia, ha presentato programmi sul tema nella televisione britannica, il batterista del gruppo ha il brevetto di un pilota di aerei e non mi ricordo che cos'altro, però volevo dirlo e il pezzo non ce lo sentiamo, basta. Tutto questo succede perché è tipo uno sconto di fine stagione per il fatto che questo programma, come detto, va in ferie. Non se ne vanno in ferie invece i Beastie Boys, che noi adesso andiamo ad ascoltarci su Music for Youth, Radio Share 17800, Radio Sandana 100200. Questo è uno dei loro pezzi più famosi, si chiama Intergalactic. Well, now, don't you tell me to smile. You stick around, I'll make you put your wild. peace out, too nice to be me. When on the top guy style, I'm not too keen. Try to change the world, I will plot and scheme. Mario C likes to keep it clean. Wanna shine like Jason Dean. Keep on rapping, cause that's my dream. Change it more deep for sticking to me. 102.2 Radio Sandonà, 97.8 Radio Sherwood. In questo momento, per la prima volta nell'anno, anche il nostro programma si piega alla pubblicità progresso, quindi passo la parola all'esimio dottor Catte. Ciao donna, vuoi far impazzire il tuo uomo? Vuoi fargli provare delle sensazioni uniche ed immaginabili? Vuoi farti trovare seminuda lungo la spiaggia? Vieni a fare con me il corso di Hula Hoop, gli farai vedere il paradiso in un secondo, due tocchi di anca e via. Ha superato la prova. Sono stato bravo. Quello che il dottor Catte non vi dice è che per iscrivervi al corso di Hula Hoop dovete telefonare allo 0421 560993 o mandarci un fax allo 0421 560994, e la nostra folla di segretarie, chiamate Daniele confidenzialmente, si metterà in contatto con voi. Altrimenti una mail a radio@radiosandona.it per maneggiare l'anello molto meglio del signore degli anelli. Altrimenti chiedeteci tutte le indicazioni, chiedetele a noi, che poi noi le giriamo all'esimio dottor Catte, Jump Events della premiata ditta. Le potete scrivere su musicforyouth.wordpress.com, è il nostro blog appoggio, che trovate linkato anche nel nostro gruppo Facebook Music for Youth YOUTH, per i non anglofoni, gruppo Facebook, quindi, che è linkato anche dove? Sulla pagina di Sherwood, perché anche sul sito di Sherwood abbiamo una nostra pagina dai quali potete trovare in tutti questi indirizzi e su Sherwood, come appena detto, il podcast di questa puntata e tutte le puntate arretrate insieme alle playlist e le informazioni. Siamo anche su iTunes, per chi maneggia con iTunes. Ah, siamo anche su iTunes gratis. Tutto gratis. Sì, beh, in effetti dovremmo pagarvi noi per scaricarci. O dare soldi a quelli di iTunes. L'importante è maneggiare comunque. Esatto. L'importante è maneggiare, avere le mani in pasta. Molto bene, Kate, ti ringraziamo per il servizio sociale di Music for Youth che noi cerchiamo di sponsorizzare ogni settimana. La prossima settimana vedremo di inventarci qualcosa di nuovo. È arrivato invece il momento per voi di fare la gente seria e ricapitolare tutti i vostri contatti nel caso qualcuno vi voglia per l'appunto contattare. Chi ci pensa dei due che vi guardate negli occhi? Ci penso io. Ci pensi tu, Gian? Siamo facilmente contattabili tramite Facebook. Ci trovate sotto Nicola Catte Catelan per il mio socio e Jacopo Giampaolo Bonetti. Abbiamo un gruppo molto popolato sulla stessa Facebook che è Jump Events. Un gruppo solo per il muretto che è Jump il muretto. Potete trovarci anche su MySpace all'indirizzo www.myspace.com/jump-events. Non vi dimenticate la S, perché di eventi ne facciamo tanti. E anche sul famoso Resident Advisor, che adesso va molto di moda ed è molto utile per i giovani che hanno a che fare con questo genere di musica, anche lì sotto jump-sotto Events. Ah, molto bene. Sto Resident Advisor è un social network. È una cosa possiamo usarla anche noi. Cioè, dici che è meglio. È molto importante. Dici che è meglio che ci mettiamo sotto con le pratiche. Serve molto. Ah, ecco. Resident Advisor è un buon inizio per la pubblicità, i DJ, per i gruppi. È molto utilizzato. Dobbiamo buttare due sardi online su sto coso qua. Poi ce lo facciamo scrivere su un post-it. È un po' più concentrato sul genere di musica che facciamo noi. Quindi... Vabbè, non importa, ma figurati noi dove possiamo buttarci. Siamo come le alghe. Sì, cioè... siamo come l'olio ungiamo e ci appiccichiamo e non ci lavi via neanche. Dunque, col Bim. Dopo tipo la situazione in questo studio in questo momento. Esatto, che non ci staccheremo mai più dalle sedie. Insomma, esatto, un tutt'uno 70 gradi. Seggiolino. Si stanno cucinando delle patate di fianco a noi. Che si può dire ancora? Vi ringraziamo, vi salutiamo. Sì. Salutiamo i nostri soci, chi lavora con noi. E il nostro fedelissimo e compagno DJ Old Eric, che è alle spalle di noi e che ci aiuta molto e ci aiuterà nel prossimo futuro, nel progetto che ci attende per settembre. E niente, vi ringraziamo e vi vogliamo tanto bene. Te volevi aggiungere qualcosa? Ti vedevo gesticolare, non so, no. No, mi tranquillo, mi sbagliavo. Mi piacevi. Sì, no, mi molto piace. Molto bene, gesticolare nei confronti della mia bellezza, grazie. Esatto. Se penso che tu sia il primo e unico. Che dire, Favotto, noi siamo con la traccia di chiusura. Prima però, gente, se volete, e qui l'avviso, se volete vincere un biglietto per la serata del, e dillo tu, Favotto, il giorno... 24 luglio. Del 24 luglio a Rock and Doc di 90 di Piave, serata in cui ci saranno, procedi con l'elenco: Club Dogo, Noise Narcos, Piotta, Micromala, Gain on Top, Tundra e Taiga, Old Eric e The Smoking Guys. Quindi, voglio dire, ve ne danno 4 e 4-8 più degli altri, voglio dire, i duetti di Crudo in omaggio. Non capisco perché non dovreste concorrere per avere in regalo sto biglietto. Scriveteci, il primo che ci scrive si becca il biglietto, poi noi vi contatteremo. Metteteci ovviamente o il numero di telefono o scriveteci un altro indirizzo email al quale contattarvi. Gli facciamo rispondere una domanda o è il più chi scrive per primo ed è il più veloce? No, noi siamo per l'ignoranza legata alla velocità. Perché dovete scrivere sono il primo che si becca il biglietto o una cosa del genere, scrivete quel cacchio che volete e... il primo che arriva vince, tutto qui, molto facile, no? E vi risparmiate un bel po' di urelli. Tra l'altro, quello che vi posso dire in linea di massima sul Rock and Doc è che è un festival meritevole. Noi ci sentiamo di sponsorizzarlo anche perché sta a 5 passi da casa nostra e Lele può andarci in bicicletta dal 16 al 25 luglio al Parco Nord di 90 di Piave. Un sacco di ospiti, tra cui Le Vibrazioni, Planet Funk, gli Africa United, Linea 77, come dicevamo, Club Dogo, Joe Squillo e Madonna. Voglio dire Ivan Cattani. Che momenti! Che bei e momenti! Sandy Martin, tutti in una sera. Come che Sandy Martin? Ma certo, che è la serata anni 80? E c'è una serata anni 80, bravissimo. Ma è ancora vivo? Pensavo fosse faccio la fine di Santi Lichieri, vabbè, non importa. Ma no. Che teatro! Sì, che bello! Alla fine e scende una cassa nera e dei fiori bianchi su tutti noi e a questo punto è il momento di salutare Terza Rio. Salutiamo, noi cercheremo di portare a Rock and Doc il prossimo anno gli Air, Amour, Imagination, Rev. Loro non vorranno, anche loro questi non vorranno. Francesi, anche questi un duo, perché ovviamente. Perché lo mettiamo? Perché noi ci siamo riguardati un film vecchio di Sofia Coppola, Il Giardino delle Vergini Suicide. Sì, e loro curano buona parte di quella colonna sonora. La canzone finale si chiama Playground Love e in quanto canzone finale di quel film, noi abbiamo scelto invece per usarla come trasmissione. In noi trasmissione ringraziamo ancora Jump Events per essere stati con noi. Grazie a voi, baci e abbracci, vi aspettiamo a settembre, avrete presto nostre notizie e saprete cosa stiamo per prepararvi. Collegatevi a tutti i contatti disponibili di Jump Events per questo. Sì, oppure venite a cercarli, ci trovate in piazza. Music for Youth, Radio Sherwood 97800, Radio Sandonà 102200, Daniele Alvise vi salutano. Questa è Playground Love degli Air. Ossequi. All my soul. So